Sai, è buffo. L'uomo che mi ha aggredita. L'hanno preso. Sai cos'è successo? Gli hanno dato 3 anni. 3 anni in carcere per avermi rotto il naso e rubato il portafogli. Se una donna infiltra dentro il tuo petto, ti strappa via il cuore, rovina la tua vita del cazzo e ti lascia a pezzi. È distrutto. Va tutto bene. Non c'è legge a vietarlo. Ok, è perfettamente legale. Eri la luce dell'inverno quotidiano, lo squarcio di sole nella nebbia di Milano. Bella da mozzare il fiato, talmente bella che le rose si vergognavano dopo aver sbocciato. Avevi fatto presa con le tue radici nel mio terreno colcimato da coccole baci, rinunciando alla vita per poter combattere, bisognoso di te come un cuore bisognoso di battere. Defibrillavi le emozioni, una scossa continua tutte le mie azioni, aspettando te respiravo a malapena. Un tuo abbraccio era come adrenalina iniettata in vena. Tutti quei pensieri scritti sul quaderno, divisi tra paradiso, purgatorio ed inferno. Ora smetti di far perdere tempo a Dio, è inutile pregare, a me ci penso io. Vivendo nell'inferno quotidiano, ho pagato il debito nella nebbia di Milano. Prenoto il viaggio solo andata per il paradiso, mentre aspetto il purgatorio con il sorriso. Abbiamo scritto pagine di storia nello stesso libro, ma in lingue differenti, traduzioni senza filtro. Potevi avere tutto e scelto di scappare. Siamo solo una storia che mi piace raccontare. Quello che porto addosso non lo puoi strappare. Non ho alcun dubbio, non ci sarà più nessun altro altare. Resto nell'ombra e mi nutro di sarcasmo, che uso per ferire chi non mi procura più alcun orgasmo. Preservativi stimolanti, messi al contrario, anticongezionale, senso arbitrario. Io scelgo l'istinto, non la mia coscienza. Mi farò del male, ne sono a conoscenza. Le brave persone sono una razza in estinzione. Ci puoi credere o meno, io ne sono l'eccezione. E per come vivo, ho diritto al paradiso. È dura vivere all'inverno, ma l'aspetto col sorriso. Vivendo nell'inverno quotidiano, ho pagato il debito nella nebbia di Milano. Prenoto il viaggio solo andando per il paradiso, mentre aspetto il purgatorio con il sorriso. Domani è il primo giorno del resto della mia vita. Ogni girone superato oggi è come una gita. La mia musa ispiratrice era una sgualdrina. Continuo scrivendo la mia commedia divina. Nella ricerca del giusto girone ho incrociato pezzi di merda e brave persone che mi hanno detto di farmi troppe paranoie, anche dimostrando di collezionare solo troie. Il mio sesto senso aveva ragione. Da allora penso che l'amore sia un luogo comune. Vedo persone innamorate come ti riduce, non provarci, con me stammi lontano, anni luce. Prendo le distanze dall'amore, dittatore come il duce. Vedo gente che non zama alle mie spalle, taglia e cuce. La vita è troppo breve per piangerci addosso. Tu volevi la mia carne e sei arrivata all'osso. Poche soddisfazioni in questa vita, una delle quali è stata dirti che era finita. E se una donna non ti tocca neanche con un fiore, ha avuto la fortuna di conoscere solo il mio lato migliore. Vivendo nell'inverno quotidiano, ho pagato il debito nella nebbia di Milano. Prenoto il viaggio solo andata per il paradiso, mentre aspetto il purgatorio con il sorriso. Domani è il primo giorno del resto della mia vita. Ogni girone superato oggi è come una gita. La mia musa ispiratrice era una sgualdrina. Continuo scrivendo la mia commedia divina. Tutta quella rabbia per una questione sessuale. Sei il sogno erotico di Freud.